dek hai tumpas lai you must burai kumina jani ya sapne dek hai jaage na sota hai kya karu hai kuch kuch hota hai kya karu hai kuch kuch hota hai Terima kasih, Pak Jiri.